giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. A testa alta, storie di racket. È una rinuncia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo è il vero fatto. Non è che io non abbia avuto avvicinamenti. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava, il buon amico, mi offriva questo, la protezione, tu affari migliore dell'anno, in fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi, non pago, esatto, preferisco stare nei miei affari, e se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Ho voluto sapere in un programma, è verso un programma mio di sviluppo, visto che Palermo dall'80 ha avuto uccisi 5 magistrati, di cui qualcuno amico mio, dei giornalisti come Mario Francesi, assolutamente innocenti, dei galantuomini. Qual era di fronte al mio programma di lavoro gli interlocutori? Gli interlocutori che sono il prefetto, che sono i magistrati. Inizio degli anni 90. Palermo, Sicilia. C'è un uomo solo, senza scorta, senza alcuna protezione da parte dello Stato. Lui resta barricato nella sua azienda con i suoi 100 operai. Ogni giorno, per molte settimane, che diventano mesi. L'azienda è la Sigma, specializzata in biancheria intima. Pigiami, boxer, slip, vestaglie esportati in Europa e nel mondo. Una società pulita, con i conti a posto, che lavora nel libero mercato italiano. Fanta ha un giro di affari di 7 miliardi annui. Quell'uomo solo, senza scorta, non protetto, è Libero Grassi, imprenditore siciliano. Sì, perché lui è coraggioso. Ideali di giustizia, i valori fondanti di una democrazia compiuta. Libero Grassi combatte una battaglia di legalità contro estorsori ed usurai. Si rifiuta cioè di pagare il pizzo per salvaguardare la sua dignità. E lo fa alla luce del sole, in televisione, alla radio, sulle pagine dei principali quotidiani. Pina Maisano, moglie di Libero Grassi. Libero Grassi era un cittadino molto attento a quello che avviene nella società. Diciamo che era un intellettuale. E aveva questa dignità del lavoro, sì, aveva 100 maestranze ed era un'azienda abbastanza bella. E Libero la gestiva in prima persona, ovviamente collaborato dalle persone che c'erano nell'amministrazione e soprattutto dalle operaie che lavoravano alle macchine. Da quelli che tagliavano e così via, tutto quello che c'è in un'azienda che produce abbigliamento, nel caso specifico abbigliamento per la notte. Sì, è entrato al mirino degli estorsori anche perché la fabbrica sorgeva in un quartiere, in una strada dove abbiamo scoperto poi che tutti quanti pagavano e che era sotto la gestione dei Madonia, del clan di Madonia. Poi si hanno cercato di intrufolarsi nell'azienda in varie maniere, così a distanza di tempo, con vari prima chiedendo dei soldi, cose che sempre il Libero si è sempre opposto, denunciando sempre tutti i tentativi di estorsione subiti. Il 30 agosto 1991 Libero Grassi invia una lettera al Corriere della Sera e racconta tutta la sua solitudine in un territorio dove la mafia controlla i gangli vitali dell'economia di quel tempo. La prima volta mi chiesero i soldi per i poveri amici carcerati, i picciotti chiusi a Lucciardone. Mi rifiutai di pagare. Così iniziarono le telefonate minatorie. Attento al magazzino, guardati tuo figlio. Attento a te. Il mio interlocutore si presentava come il geometra Anzalone. Minacciava di incendiare il laboratorio. non avendo intenzione di pagare una tangente alla mafia, decisi di denunciarli. Mentre la fabbrica era sorvegliata dalla polizia, entrarono due tipi strani. Dissero di essere ispettori di sanità. Fuori però c'era l'auto della polizia e avevano grande premura. Volevano parlare a tutti i costi con il titolare. Scesi e dissi loro che il titolare riceve solo per appuntamento e al momento era impegnato in una riunione. Se ne andarono. Li descrissi alla polizia e loro si accorsero che altri imprenditori avevano fornito le medesime descrizioni. Gli esattori del pizzo, i due che indifferentemente si facevano chiamare Geometra Anzalone, altri non erano che i fratelli gemelli Antonio e Gaetano Avitabile, 26 anni. Furono arrestati il 19 marzo insieme a un complice. Libero Grassi è un imprenditore che si oppone alle cosche mafiose, con coraggio e umiltà, mai solo. Per questo i sicari lo attendono alle 7.30 del 29 agosto 1991, proprio all'angolo tra via D'Annunzio e via Alfieri. Lo uccidono senza pietà, nella sua Palermo, davanti a numerosi testimoni, come ricorda Pina Maisano. Era un giovedì. Il lunedì sarebbe riaperta l'azienda, per cui lui andava in fabbrica, aveva appuntamento appunto con quelli dell'ufficio per organizzare il lavoro per la ripresa dopo le ferie, e lo aspettarono così girato l'angolo da casa e l'hanno ucciso. E poi tutto quello che avviene dopo è abbastanza noto, perché ci fu una presenza spesso molto formale di tutte le autorità allora dello Stato, dopo circa un mese, durante il quale io non avevo voluto vedere nemmeno i giornali, perché tanto sostenevo che sapevo benissimo quello che era avvenuto, non avevo bisogno di sentirmelo raccontare dagli altri. Io ho deciso di governare la situazione e sono sempre stata presente in tutte le manifestazioni, in tutta la battaglia contro la mafia. Pochi giorni dopo il giudice Giovanni Falcone riporta le sue impressioni nella prefazione del libro bianco della Confesercenti Estorti e riciclati, uscito dopo l'omicidio di Libero Grassi. Si può comprendere appieno il gravissimo disvalore per un'organizzazione come Cosa Nostra di un atteggiamento come quello di Libero Grassi, che non solo non aveva chinato la testa alle richieste estorsive, ma addirittura aveva collaborato all'individuazione degli esattori e si era pubblicamente vantato di ciò, incitando gli altri imprenditori a seguire il suo esempio. In breve, ciò significava un incitamento alla rivolta contro l'organizzazione mafiosa e doveva essere esemplarmente punito. Ma le idee di Libero Grassi non si perdono nel vento e si trasferiscono nelle azioni di un giovane commerciante di Capo d'Orlando, Tano Grasso. Lo eleggono subito presidente della prima associazione italiana anti-racket. Raccoglie consenso quello studente di filosofia che parla con spiccato accento siciliano, così, di libertà e di giustizia. Un imprenditore che non abbassa il capo davanti al boss mafioso di turno, al capocosca che entra nel suo negozio, al picciotto che chiede l'incasso della giornata. Così Tano Grasso ricorda il sacrificio di Libero Grassi. Quando questo mite imprenditore palermitano di nome Libero Grassi, un industriale che aveva una fabbrica con 100 operai dove si producevano dei pigiami che venivano venduti in tutta Europa, venne ucciso dalla mafia, ci chiedemmo tutti perché. Libero Grassi era una persona che aveva semplicemente dichiarato pubblicamente la sua opposizione agli estortori. La sua vicenda inizia quando nel gennaio del 1991 scrive una lettera aperta sul giornale di Sicilia dicendo: estortori, è inutile che venite nella mia azienda perché io non vi pago. Io la mia libertà di imprenditore non la divido con nessuno. Semplici parole: fiducia nell'istituzione, collaborazione con l'istituzione, denunciò gli estortori, la sua arma fu la parola. Racket e pizzo, cosa sono? Chi controlla questa attività illegale nel nostro paese? Utilizzando quali meccanismi? Con quali finalità? Soprattutto, come combatterli? Scrive il Ministero dell'Interno sul suo sito internet www.mininterno.it. Il racket o il pizzo è un'attività criminale generalmente volta ad ottenere ad un operatore economico il pagamento periodico di una certa somma in cambio dell'offerta di protezione da una serie di intimidazioni che in realtà è lo stesso proponente a mettere in atto. Questa forma di estorsione è un fenomeno assai diffuso, generalmente sommerso e per molto tempo sottovalutato, tanto da essere considerato un fatto quasi normale, un affare privato delle vittime, oppure qualcosa di secondario tra le varie attività della criminalità organizzata, in particolare mafiosa. Giallo e nero, tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. A testa alta, storie di racket. Quattro anni sono passati dall'uccisione di Libero Grassi e oggi la coscienza dei cittadini sembra cambiata davvero, non solo in Sicilia, in tutte le regioni dove il pizzo rappresenta un'entrata economica sicura delle mafie. Non si contano le associazioni che difendono gli imprenditori onesti dalle pretese delle organizzazioni criminali. Sono numerose e dislocate nel territorio e rappresentano un punto di vista, un punto di riferimento. Filippo Calippo, presidente di Confindustria in Calabria. Noi in effetti qui siamo a contatto, viviamo in un'area che è pesante, siamo a contatto perché gente che poi non è che hanno un distintivo e lei può evitare, li incontra nei bar, li incontra nelle piazze, ma cioè non li incontra come incontrano che uno va a fare un colloquio, li incontra così, cioè quindi noi subiamo anche questo stato di cose. E fino ad oggi questo stato di cose è stato, diciamo, subito non solo da noi, ma da quelli che potevano gridare, perché io è da 4 anni, da quando, anzi quasi 5, da quando sono presidente di Confindustria Calabria, che ho evidenziato questo problema. Addirittura alcuni governanti calabresi mi hanno risposto che non hanno l'esercito, che non hanno la polizia regionale, però non si sono dati da fare verso il governo a rappresentare le cose. E ancora Lino Busà, presidente della Federazione delle Associazioni Antiracket, nel suo appassionato intervento alla recente assemblea degli imprenditori contro il pizzo di Gela. Un segnale forte che il pizzo non deve essere pagato, perché se questo segnale non arriva, se si interrompe questa comunicazione, arriva un segnale opposto, che pagare il pizzo in un quarto d'Italia è una cosa normale. Silvana Fucito, napoletana, presidente dell'associazione Antiracket San Giovanni per la legalità. Lei è una combattiva donna d'affari napoletana che lotta contro la camorra. Ha reagito alla violenza, si è rifiutata di pagare il pizzo e ha denunciato i suoi estorsori finiti in carcere, poi processati. La rivista americana Time l'ha citata come esempio di onestà italiana. Diciamo che tutto è iniziato nel 1998. A piccoli passi, piano piano, sono avanzate delle pretese sempre più grandi, fino a sfociare poi nel 2002 con richieste esose, esagerate, favori, cioè chiedevano favori che avrebbero potuto mettere me in cattiva luce con lo Stato, perché mi chiedevano cambio di assegni, chiaramente di dubbia provenienza. Loro ti avvicinano all'inizio chiedendoti delle piccole cose, dei piccoli piaceri, tipo, non so, nel caso mio, 100 grammi di pittura per pitturarsi la macchina, e poi 3 latte di pittura perché si dovevano rinfrescare le pareti di casa. E poi man mano, quando cominciano a vedere che tu cedi, i 100 grammi diventano chili, i chili diventano qualcosa di più, poi cominciano a venire a chiederti dei favori a cui tu poi non puoi tirarti indietro, perché se no si arrabbiano, poi cominciano a chiederti soldi, insomma. Loro, quando capiscono che il commerciante è un debole, che il commerciante cede, loro poi si sentono in diritto di andare sempre avanti. Con me non ci sono riusciti, perché ho cominciato a dire di no. Chiaramente finché erano i 100 grammi di pittura poteva anche andare, ma quando le loro richieste sono diventate esagerate, abbiamo cominciato a dire di no. E quindi sono cominciati i fastidi perché venivano nei negozi, venivano armati, ti facevano capire che se tu non pagavi, minacciavano con le pistole, minacciavano con i fatti, insomma venivano con le telefonate, insomma è stato un crescendo, e in questi anni, diciamo, fino a che non hanno incendiato il negozio, abbiamo sempre cercato di tamponare, di trattare, non abbiamo soldi, siamo in difficoltà, poi se venivano e chiedevano di mio marito dicevo che non c'era e rispondevo io, andavo io a trattare con loro, insomma a questo punto evidentemente sono stancati e si sono molto innervositi quando poi ho cominciato io a trattare con loro, perché loro secondo me non reputano degna una donna di trattare con loro, quindi a questo punto vennero addirittura fuori al negozio con delle macchine blindate e dissero chiaramente a mio marito: se mo te ne devi andare da San Giovanni perché ti facciamo saltare in aria. Questi criminali chi sono? Allora, questi criminali erano 3 clan di San Giovanni, il Cuccaro, gli Aprea e i Rinaldi. Lo Stato le ha dato una mano? Certo, non per quello che io ho perso, chiaramente, perché quello che ho perso non torna più indietro, ma mi ha dato una mano in tutti i sensi. Questi personaggi ora dove sono? Allora, delle 15 persone che io ho denunciato, 11 stanno riposando non so in quale carcere, perché hanno chiesto il rito abbreviato e sono stati condannati, chi ha 10, chi ha 11, e qui hanno avuto una lezione esemplare, anche perché loro non sono stati condannati per l'incendio, perché purtroppo lì non è uscito fuori chi ha incendiato il negozio. Sono stati condannati per le estorsioni che mi hanno fatto, e 10-11 anni sono tantissimi per il rito abbreviato, non si era mai verificato una cosa del genere. Altri 4 siamo ancora in fase di dibattimentale, quindi sto andando avanti col processo. Le idee di Silvana Cucito in Campania vengono condivise da altri imprenditori in Sicilia. A Gela, ad esempio, è attiva da anni l'associazione commercianti impegnata nella battaglia per la legalità. Renzo Caponnetti, vicepresidente, anche lui, come altri in Italia, rifiuta di pagare le mafie, da sempre, e ne va orgoglioso. Sfido chiunque a continuare ad avere interessi allo sviluppo della propria azienda, sapendo che il proprio lavoro e tutti i sacrifici potrebbero andare in fumo in un attimo per aver detto di no. Ed è anche certo che da quel momento vivrà nella paura. Solo se riusciremo insieme a fare resistenza, non proveremo la solitudine e l'abbandono, riuscendo a lavorare nel rispetto dei nostri diritti con serenità. È un uomo caparbio e deciso, Mimmo Carmisotto, presidente dell'associazione antiracket di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Io da 10 anni che vivo questa esperienza dell'associazione antiracket. E ti dico, dopo 12 anni vivo questa esperienza come uomo libero, perché sono un uomo libero. Magari prima, 10 anni prima, non ero un uomo libero perché ero sotto quella oppressione della mafia organizzata. Adesso sono un uomo libero e continuo a crescere all'interno dell'associazione e con altre associazioni che stanno nascendo nella nostra provincia, nella nostra regione. Per un semplice motivo, dico, se noi cresciamo, e io fino adesso sono un uomo libero che prima non ero, credo che diverse persone, diversi cittadini che sono sotto l'oppressione della criminalità organizzata si possono liberare e sono uomini liberi. Ecco quello che mi viene a continuare questa lotta al racket. Pasquale Vari, imprenditore calabrese, è entrato più volte nel mirino dell''ndrangheta. La sua testimonianza raccolta da Valentina Furlanetto fa emergere i meccanismi con cui le organizzazioni criminali cercano il controllo attraverso le estorsioni. Noi abbiamo un'azienda che produciamo articoli in vimini e commercializziamo articoli in vimini e legno. Come si vive da imprenditore in Calabria? Ma è lo Stato centrale quello che manca, cioè devono avvenire degli episodi eclatanti come questa morte di Fortunio per attirare attenzione dello Stato centrale. Parliamo sempre di Stato centrale, Stato periferico, prefetture, commissariati, questure e tutto il resto, quelle sono molto presenti. Il problema è che servono delle leggi adatte al problema, perché il problema è serio. Il problema dell'estorsione, il problema del racket, il problema dell'usura sono problemi seri, perché la criminalità li utilizza per tenere sotto controllo e sotto pressione il territorio, per poter fare tutti i suoi traffici illeciti. E il problema del racket non è preso seriamente dallo Stato. E quanto è invasivo il problema del racket per un imprenditore? Si parla che più del 50% sono in mano al racket in Calabria. Villaggi, hotel, strutture, compagnie di servizi, parliamo di autotrasporti, sono quasi tutti in mano al racket. O in un modo o in un altro, sono tutti dipendono dal racket. Una volta che entra, cioè l'andrangheta, una volta che entra nell'azienda, se uno fa un parametro costo-spesa, il racket gli può proporre degli affari molto lucrosi, perché il racket pilota fallimenti, cioè è tutto un discorso molto ampio. Adesso è cambiato, almeno in Calabria è cambiato il discorso, non c'è quello che ti viene a chiedere il fisso. Tu devi andare dal compare a dire: guarda, ho questa situazione qua perché mi hanno incendiato il magazzino, vedi come possiamo sistemarlo. E il compare in quel caso là è una persona neutra che ti mette in contatto con queste persone. Tu ti metti d'accordo, paghi, loro ti lasciano stare, ma nel momento che tu paghi, tu diventi, si può dire, in amicizia con queste persone, perché loro vengono e ti propongono: sai, abbiamo della merce rubata, abbiamo della merce che ti potrebbe interessare, abbiamo un motore di un camion, abbiamo sistemare un ragazzo che dovrebbe lavorare, cioè si innesca un sistema, purtroppo, che poi non è facile uscire. E come si fa a rimanerne fuori da questo discorso? Si vive sotto pressione. Mi hanno incendiato dal 98 fino al 2005, mi hanno incendiato 3 volte un capannone, mi hanno incendiato una volta la macchina, una volta un camion, una volta della merce all'esterno, un'altra volta dell'altra merce all'esterno, mi hanno lasciato delle bottiglie incendiarie, mi hanno fatto delle telefonate minatorie. Coscienze di imprenditori liberi che si ribellano a testa alta e ad alta voce. Ancora molti sforzi sono da compiere per debellare il racket, come ci ricorda Tano Grasso. Non si può pensare che d'amplè si risolve il problema. Perché? Perché qui dobbiamo confrontarci con una mentalità radicata, con un modo di pensare, con comportamenti che sono quelli che costituiscono il punto di forza della camorra. La forza delle mafie non è il fatto che loro uccidono, la forza delle mafie è il fatto che c'è della gente che si pone in un atteggiamento di condivisione, purtroppo. E qui è un percorso difficile. Perché? Perché bisogna lavorare sulle coscienze, non sulle manette. Bisogna lavorare sulle coscienze e questo ci vuole tempo. Si sottovalutano, non si capisce che qui parliamo di Napoli dove si ammazza, ma perché non parliamo di Palermo dove non si compie nessun delitto e dove il radicamento mafioso sul territorio è notevolmente maggiore che qui? Ecco, c'è una realtà che si vuole nascondere e non si vuole far emergere. Stato, istituzioni, amministrazioni pubbliche sembrano più attente al problema del racket. Carlo Ferigno, commissario antiracket e antiusura, è convinto di riuscire in questa sfida con le organizzazioni criminali. una sfida non solo repressiva, anche culturale. Solo la giustizia e il diritto potranno vincere, perché vedete, non esiste cupola, non esiste capomafia, non esiste ricatto che possa soffocare il diritto di esercitare liberamente la propria attività in un paese libero e democratico come il nostro. I programmi. Assai più complesso confrontarsi ogni giorno con la propria paura. Ecco il passaggio. Il passaggio è quello dalla consapevolezza al coraggio. Non eroismo, si badi bene, ma coraggio di esercitare la propria funzione di cittadino, null'altro. E infine nel nostro racconto torniamo dall'inizio, dalle idee di Libero Grassi, quelle che secondo la moglie Pina Maesano qualcuno doveva pur saper raccogliere. Per chi lo vuole accogliere, la libertà e la dignità.